salve a tutti e tutte, sono di nuovo qui a raccontarvi un po' questo fiume di gente, non si sa dove comincia, non si sa dove finisce, una tale quantità di persone non si vede a Roma da tempo. Il contesto è molto determinato, ancora siamo a del io per adesso, no, per colossale appunto, perché non c'è un inizio, non c'è una fine. Non vi so quantificare il numero, però davvero siamo tantissimi, siamo tantissime. Ci sono stati dei momenti di tensione, ma tutto finito, tutto filato liscio. Per adesso, appunto, c'è una parte del fermo al Colosseo, si spera di compattarsi e di finire verso San Giovanni. Non è successo nulla di importante, diciamo, di importante cruente, esatto. Quindi veramente le persone sono qui una diverso dall'altra, cioè c'è tutta Italia, dagli indignati, dagli incazzati che io ho del culo, a qualsiasi possibile persona che appunto si riconosce quel 99% che sta facendo la fame e che subisce la crisi. Va bene, ti ringraziamo davvero di questa corrispondenza, appena hai altre informazioni ti preghiamo di risquillarci di nuovo, va bene? A dopo, un bacio. Dai, grazie mille, buon ascolto.